Ritorniamo in onda dopo una settimana, sempre su Sono Solo Nuvolette. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat, su Twitter, qui da Radio Archimede, e questa è Sono Solo Nuvolette. Ci spostiamo un po' più là dopo fumetto, in realtà abbiamo spaziato anche costuming e dintorni. Questa settimana parliamo di animazione, del mondo dell'animazione, 2D, 3D, tradizionale, digitale, anche se oramai penso che sia tutta digitale. Parto da questo presupposto, ma ce lo confermerà il nostro ospite. Il nostro ospite è Giorgio Bellasio. Ciao a tutti, ciao Fulvio. È molto complicato riassumere tutta la tua carriera, quindi ti chiedo in estrema sintesi, doversi raccontare la tua figura professionale. Tu sei comunque regista, oltre che animatore, quindi ti occupi anche del discorso complessivo dell'animazione. Sì, allora diciamo che sulla mia carta d'identità c'è scritto disegnatore, per comodità, okay. Così almeno se qualcuno ha dei dubbi rimango a livello base. Anche perché in principio tutto nasce da un disegno. La mia risorsa fondamentale è quella. Okay. Poi sfruttando il disegno, in realtà nel corso di tutta quella che è stata la mia evoluzione scolastica e professionale, ho cominciato a occuparmi soprattutto di animazione, abbracciando tutte quelle che sono le fasi produttive, i processi di lavorazione all'interno della produzione di film d'animazione, film, cortometraggi, spot pubblicitari, eccetera, sia in animazione tradizionale e sia in animazione digitale, okay. Cioè quindi disegnata o realizzata direttamente al computer. Perché di per sé penso che il processo produttivo di un film d'animazione sia uno dei più complessi in assoluto. Beh, c'è una bella filiera, nel senso, allora al giorno d'oggi poco è cambiato, fatta eccezione degli strumenti, rispetto a come si faceva animazione 50, 60, 70 anni fa. Comunque il metodo è sempre lo stesso, cioè si parte comunque da un'idea, da un soggetto, da una storia, e sulla base di quella si crea un mondo attraverso l'immaginario visivo, attraverso il linguaggio registico, attraverso appunto il linguaggio grafico e tutti gli elementi che compongono un audiovisivo. Esatto, poi se il fumetto è rappresentazione visiva del tempo, nel senso che tu scegli dei fotogrammi, dei potenziali fotogrammi e diventano le vignette della tavola, e nell'animazione hai tutto il movimento intero, il linguaggio è molto più vicino a quello direttamente del cinema che quello... Sì, assolutamente, tant'è vero che nel fumetto ci sono quelli che nel linguaggio cinematografico sono degli errori veri e propri, come ad esempio gli scavalcamenti di campo, perché comunque il fumetto congela dei momenti, la summa massima di quel determinato momento, in maniera che lo spettatore abbia poi tempo di riflettere, analizzare e in tutto quello che può essere successo prima, dopo o durante anche la lettura di quell'unica vignetta. Esatto, il cervello che colma gli spazi, lo spazio bianco. Sì, mentre in realtà in animazione doveva esserci ogni singolo fotogramma percepito dal cervello. Sì, diciamo che proprio andando sulle basi, un film d'animazione, qualsiasi animazione noi vediamo, è fatta da un insieme di immagini che scorrono rapidissime nel tempo, e la struttura base di questo schema è, perlomeno nel cinema, avere 24 immagini che vengono proiettate in un secondo. Questa è un po' la base. E immagini che sono niente meno che come delle fotografie, e tra un'immagine e l'altra ci sono piccole variazioni, piccole o grandi variazioni degli elementi, soprattutto dei personaggi, che descrivono in qualche modo il movimento. Tutto si basa su all'alba dei tempi, è nato da un difetto che ha il nostro occhio, che è la persistenza dell'immagine sulla retina. Per cui ogni immagine tende, che noi vediamo, soprattutto se proiettata velocemente, tende a congelarsi per un piccolissimo lasso di tempo nell'occhio, e la successione di immagini, a questo punto l'occhio non riesce a stare dietro e impasta le immagini fra di loro, e quindi si crea la fluidità del movimento stesso. Ma infatti credo che ci sia anche una soglia, puoi scendere anche un numero minore di fotogrammi al secondo senza che impatti totalmente sulla percezione, oppure forse oggi abbiamo anche l'occhio un po' più sviluppato dal digitale? No, in realtà a 16, a volte il cinematografico lo standard era addirittura al di sotto. Come... Ma allora il tempo di proiezione rimane sempre quello, 24 per il cinema, okay. 25 per la televisione, okay. Questo in Europa, perché poi negli Stati Uniti invece c'era un altro sistema. Sì, sì, sì, sì. E, diciamo che tu puoi scegliere di duplicare, cioè non sei obbligato a disegnare 25 immagini, diciamo che l'occhio riesce a sopportare, ad esempio, il disegno ripetuto un paio di volte e poi con un cambiamento, e si parla di passo 2, infatti. Okay. Però si può andare anche oltre, dipende ovviamente quanto è grande la differenza di spostamento tra un'immagine e l'altra, perché se la differenza è molto ampia percepisci lo scatto, se la differenza è ridotta puoi usare anche un passo 3, passo 4, vuol dire che lo stesso disegno lo ripeti visivamente 3-4 volte. Okay. E poi puoi passare a quello successivo, che l'occhio comunque lo può ingannare comunque. E a prescindere da questo, secondo me poi si entra anche nel campo stilistico, nel senso che non è detto che l'assenza di fluidità sia un peggiorativo dell'animazione, può essere anche uno stile, avere delle immagini statiche che fanno micromovimenti, ad esempio i vecchi cartoni animati giapponesi comunque si basano su questa struttura, non ci sono grosse intercalazioni, perlomeno sì. Parlando dei seriali, perché poi al cinema è un'altra cosa, la qualità cresce. E in quel caso erano tutte scelte tecniche dovute al budget, economia, pure semplice. Pure economia, sì, infatti se ci fate caso, riguardando, poi è rimasta in realtà come eredità culturale, i giapponesi lavorano molto sulla regia, facile che in un minuto di animazione giapponese non si muova praticamente niente, ma che magari ci siano 37 stacchi di camera. E comunque muovendo il quadro a questo punto noi comunque percepiamo lo stesso del movimento, esatto. Perché la narrazione prosegue ed è un po' il trucco su cui si basano adesso i motion comics, che fanno, è un processo inverso che non sappiamo quanto si imporrà, il trasportare in delle vignette in animazione utilizzando solo i movimenti di macchina e piccolissimi movimenti magari fatti in digitale, tipo piccoli movimenti vettoriali di un braccio, di un elemento. E l'esempio esemplificativo è il motion comic di Orfani della Bonelli, che è andato su Rai 4. Beh sì, in realtà mi ricorda quando da bambino guardavo Super Gulp, che c'era Hulk, c'era Spider-Man, che era esattamente trattato allo stesso modo, insomma una maniera un po' economica ma allo stesso, cioè, comunque avvincente, non era brutto da vedere da ragazzino. Vabbè, lì quasi sempre poi la qualità della storia la meglio. Probabilmente qualcosa è limitatamente ha una tecnica limitata, ma ha un qualcosa di avvolgente nella storia, poi è la meglio su qualcosa di magari magistralmente fatto, ma poi povero dal punto di vista. Beh, questa è una regola fondamentale. Chiunque se ci ragiona un attimo si rende conto che è meglio una buona storia realizzata magari non al meglio, piuttosto che una storia pessima realizzata benissimo. La storia pessima non rimane nulla. Una buona storia, soprattutto anche in animazione, non è necessario avere chissà quali virtuosismi o barocchismi per sostenere un impianto di sceneggiatura che funziona. E qui sulla narrazione abbiamo parlato a lungo anche la settimana scorsa con Adriano Barone, prima ancora con Manfredi Toraldo, che è un insegnante della scuola di comics di Torino, e sulla scrittura ci sarebbe anche miliardi di cose da dire. È bello che si vada a parare. La settimana scorsa ho fatto un peccato nei confronti degli sceneggiatori dell'aver detto che sono convinto che il fumetto lo facciano i disegnatori prima che gli sceneggiatori, così come nell'animazione a quel punto lì il procedimento intero c'è il regista, come anche nel cinema c'è il regista, la sceneggiatura è importante, ma in quei linguaggi, nella scrittura c'è solo la scrittura, ma in quei linguaggi c'è un passaggio necessario, c'è una bella storia mal raccontata. Gli sceneggiatori gli sarà venuto un travaso di bile se gli hai detto sta roba. Si butta tutto sul discorso molto laico, perché io parto dal presupposto che bisogna essere laici sulla narrazione per capirla davvero. In questo caso pago pegno, invece parliamo dell'importanza di una buona storia a monte, di un qualcosa che abbia, di un qualcosa di buono da raccontare. Beh sì, poi chiaramente la visione del regista è fondamentale, nel senso che anche lì, cioè, c'è un passaggio chiave che è la proiezione in immagini di quello che è un concetto, un insieme di concetti, perché se quello comunque viene trattato in malo modo si sgretola tutto, insomma un po' come un castello di carte. Uno dei problemi quasi sempre di comprensione, quello su cui martello qui dai microfoni di Solo Nuvolette, che fumetto, animazione sono linguaggi, quindi è tutta questione, ci sono tutta una serie di variabili tra cui il come racconti una storia, il che stile, e tante volte magari un buono stile salva una storia solo discreta, però una storia tecnicamente perfetta da uno stile troppo levigata può essere può essere resa innocua. Ed è un discorso che si va a parare di questi tempi anche un po' Hollywood, di franchise, eccetera. Con Adriano la settimana scorsa abbiamo parlato ampiamente di questa narrazione ormai quasi convenzionale, che poi convenzionale significa semplicemente che ti adegui a un certo linguaggio. Eh sì, certo. Beh, ultimamente vedo questa tendenza generalizzata a proiettare tutto molto sul design, cioè si stanno un po' perdendo degli elementi fondamentali, funzionali anche alla narrazione delle storie, sia visivi che appunto di scrittura, e si punta tutto sullo stile, ma in una direzione di design, quindi modaiola, anche come dire, passeggera rispetto a quello che era un certo tipo di solidità a cui ci si è resi conto sicuramente a Hollywood, all'industria della cultura, del contenuto di intrattenimento per eccellenza, che il design è una bella la parte dei tempi in cui George Lucas già nella nuova trilogia girava per gli uffici non facendo niente, cercare a new iconic villain, voleva un nuovo cattivo iconico. Certo. Lucas, che è un grande filmmaker ma non un grande regista, non un grande sceneggiatore, si era reso conto per primo, e poi adesso Star Wars ha fatto scuola, che era importante trovare una riconoscibilità grafica, sì, anche che la riconoscibilità grafica a volte dà ricchezza anche dei contenuti. Sì, ma poi tra l'altro si crea un'aridità nel pensare in una certa maniera. Ad esempio, di recente al View Conference qua a Torino ho partecipato a un workshop che si chiamava Physics for Animation. Peter Schaub, supervisore di, se non sbaglio, Sony Imageworks, spiegava un po' come approcciarsi dal punto, parlando di Spider-Man, degli ultimi Spider-Man, spiegava di come approcciarsi per animare determinate situazioni. La cosa che mi ha dato un po' fastidio, ovviamente è stato utilissimo come workshop, però continuava a fare un paragone con gli Spider-Man di Raimi, dicendo ma è impossibile che qua Spider-Man faccia così, cos'ha, perché è illogico, non è coerente. Quindi faceva un paragone tra la credibilità fisica, esatto, nello spazio di un effettivo Spider-Man, sì, reale. Esatto, peccato che era più interessante quello dal mio punto di vista, era più interessante quello precedente, perché almeno c'era la componente fumettistica da una parte, e poi cioè comunque è la visione di un regista, poca importanza ha se non c'è, che poi è anche quello che racconto ai miei studenti insegnando in un paio di scuole a Torino, parlando proprio di animazione, cioè l'importante è la credibilità della cosa, non è la coerenza col reale. Una cosa può essere anche assurda, ma se diventa credibile in qualche modo, verosimile esattamente, allora funziona, esatto. Non c'è bisogno di altro. Esatto, è al discorso del convenzionale, a volte è semplicemente un sistema di regole che sia coerente con se stesso e perciò ti introduce in un mondo altro, anche inesistente, però verosimile. Esattamente. Finito il primo blocco di programma, Giorgio Bellasi oggi ha fatto la playlist, come è un piacere poter cedere lo scettro di scelta delle canzoni agli ospiti, così ogni puntata è diversa anche dal punto di vista musicale. Giorgio, vuoi annunciarci la prima canzone? Allora, Tomahawk, God Hates a Coward, il grande Mike Patton per voi. E rieccoci dopo la prima canzone, sempre con Giorgio Bellasio, sempre Sono Solo Nuvolette. Giorgio, tu che ti occupi di animazione, mi sembra di aver capito da un po' di anni, sì. L'animazione sembra potenzialmente il luogo in cui puoi raccontare qualsiasi storia e mostrare qualsiasi cosa, ma c'è qualcosa che se ti proponessero, trasponiamo adesso in animazione, tu diresti no, non si può fare, oppure sarebbe un disastro come complessità, come... Beh, dipende dal ruolo che ricoprirei in quel momento. Okay. Cioè, se fossi il produttore magari direi sì, no, vende, non vende. Okay. Da animatore potrei dire ben poco. Okay. Potrei accettare il lavoro o non accettare il lavoro. Okay. Vabbè, ma questo nell'ambito di un'industria, però il produttore di per sé, anche come opinione tua, un progetto magari faraonico che può sembrare che potrebbe funzionare e poi invece... dici no, sarebbe troppo complesso. Quali sono principalmente le voci di costo o anche solo le complessità produttive di una serie animata, di un cortometraggio animato? Ci sarà i personaggi, lo sfondo? Beh, ci sono una serie di dipartimenti. In un mondo perfetto ci sono una serie di dipartimenti che si occupano ciascuno del proprio, per cui c'è il dipartimento di ricerca grafica, in cui sviluppa quello che è il mondo della storia seguendo le indicazioni del regista fondamentalmente, poi a seconda di che si tratti una produzione 3D o 2D, si prendono delle strade differenti. Nel caso della produzione in 3D, tutto quello che è stato disegnato su carta deve essere trasformato in digitale, virtuale, in modello fisico, seppur virtuale, però certo. Deve essere modellato. Per cui devo occupare uno spazio. Devo occupare uno spazio, esattamente. Poi non serve solo costruire l'ingombro del personaggio dello spazio, ma deve avere anche una struttura ossea per poter sì. essere animato. Per cui ci sono i rigger che si occupano di questo. Per cui modellazione, quindi sviluppo grafico, modellazione, rigging. Poi c'è la parte di texturing, quelli che incollano in qualche modo una pelle con tutta quella che è l'elaborazione del, certo. del colore sul personaggio. Dopodiché c'è la parte di previsualizzazione, quindi storyboard, quindi la narrazione per vignette, la parte forse più vicina a quella del fumetto rispetto a tutti gli altri processi produttivi, sebbene si indichi già, è ben esplicitato il linguaggio cinematografico, per cui sì. c'è il collegamento tra gli elementi fra di loro che segue quelle che sono le regole della regia. E sulla base di quello viene realizzato un animatic, quindi viene temporizzato tutto quanto e si crea un primo telaio video per poter fare le fasi successive. E dopodiché viene fatto, nel caso del 3D, viene fatto il layout, quindi vengono costruiti o assemblati gli ambienti in cui il personaggio si muove, simulati i movimenti di macchina, e si crea la composizione con i personaggi, con dei movimenti abbozzati indicativi. Dopodiché tutta questa roba passa al reparto animazione con audio alla mano, diciamo gli split delle scene sui quali deve lavorare, le indicazioni del regista, quelle che sono poi le indicazioni generali di produzione. Il regista dice delle cose inerenti magari a quella singola scena, poi si sa, perché è già stato determinato all'inizio della produzione, che il personaggio Pinco Pallino è così perché è sempre nervoso, quell'altro personaggio è cos'ha perché ha quell'altro tipo di attitudine, e l'animatore cerca di convogliare tutto questo flusso di informazioni e questa imbastitura che ha già preparata da altri per mettere non solo il movimento, ma finalmente fare quello che è il suo mestiere, cioè caratterizzare il personaggio. Costruire quella che è l'identità del personaggio all'interno di quella determinata situazione, pensando al singolo elemento che è la scena e poi a tutti gli elementi concatenati, che è la sequenza, che va da micro a macro, per cui analizzando, cercando sempre di essere obiettivo, analizzando tutto il contesto. Ok, ma quindi e poi si va oltre ancora. Ok, ma quindi una serie animata su cattivi potrebbe funzionare? Vabbè, una serie animata sui cattivi funziona su sempre. Cattivic. Ah, su Cattivic, su Cattivic forse. Ah, ma qui c'è un ascoltatore malizioso. Ma una serie animata su Cattivic è già stata fatta, una gran serie animata, direi. In effetti ne abbiamo parlato con Giorgio Sommacal, che è stato uno dei disegnatori, è uno dei disegnatori storici di Cattivic. Ne abbiamo parlato qui, è stato qui ospite. Qui abbiamo un ascoltatore che è Nicola, che è la persona grazie a cui sei qui. lui vuole che la buttiamo in cacciara, però. Ma noi possiamo. Se vuoi la buttiamo in cacciara, non lo so. Parla, no, c'è un problema di. C'è stato un problema con quella serie di animata di cui si può parlare? O... Sì, no, si può parlare, andate in onda. Diciamo, non rimarrà nella storia dell'animazione. Ecco, questo si può dire, ma come tante altre cose che vengono realizzate, insomma, sono un po' che le cose che lasciano il segno e rimangono in eredità ai certo. posteri, vabbè. Quelle che hanno realmente un valore. Nel caso di questa serie è un esempio di come tante serie potrebbero nascere bene e poi si sviluppano in maniera diametralmente okay. opposta. Okay. Per quanto mi riguarda, c'era questa stranezza di definire Cattivi con una goccia d'inchiostro che, ok, Sommacal mi ha chiarito che pare che in una definizione di Bonvi stesso Cattivi diceva che Cattivi potrebbe essere una goccia d'inchiostro, però in realtà da come è disegnato è quasi sempre un essere umano un po' storpio, un po' deforme. Ma allora, nel caso della serie è stato ereditato un personaggio che era già stato utilizzato per una puntata pilota, okay. per cui nessuno ha potuto rimettere mano a quella che era la definizione del personaggio o un allineamento su quello che era l'aspetto più astratto che veniva fuori nel film. Esatto, perché di per sé c'è una metamorfosi dal segno di Bonvi, poi di Silver, di Sommacal, degli altri disegnatori, certo. a un 3D. Non penso che sia stato un passaggio facile. Ma sì, in realtà non l'abbiamo curato neanche noi al tempo, nel senso che noi ci siamo occupati della parte di animazione, i modelli del personaggio e il rig ci sono stati forniti da un'altra società Per cui ci siamo dovuti, come sempre, adattare al materiale che avevamo a disposizione. Sì. La filiera, come hai già capito, è piuttosto lunga, per cui delle volte le cose non collimano e tu cerchi di fare di tutto per tirar fuori, laddove la situazione sembra critica, perlomeno qualcosa di decente. E qualcosa è venuto fuori, perché comunque gli animatori, sebbene sia deprecabile tutto sommato come serie animata, gli animatori che sono venuti fuori da quella situazione lì, piuttosto critica anche come tempistica, perché bisognava produrre tanta roba in fretta, trovare tante soluzioni a una serie di problemi che lì per lì soluzioni non ne avevano, perché abbiamo dovuto usare un po' la fantasia. Okay. E gli animatori che quindi hanno lavorato sono uno studio sopra, italiano, come scherzavamo, come capita di scherzare, sì, esatto, sono uno studio italiano, sarebbe riuscito a risolvere quei problemi. Beh, diciamo che la capacità inventiva, questo ho avuto modo di appurarlo anche nelle mie tappe all'estero, diciamo la capacità di smarcarsi degli italiani da certe situazioni con un pensiero, col pensiero laterale, come direbbe De Bono, è notevole ed è apprezzata. Okay. Perché abbiamo questa abitudine, purtroppo, per fortuna, a doverci cavare d'impiccio sempre con gli stratagemmi più assurdi, e questo paga in certe situazioni, perché esatto, non sei legato agli strumenti ma utilizzi la tua testa, per cui esatto, vai esatto, ben più lontano. Questo è tanto per parlare sempre male dell'Italia, degli no, italiani, quantomeno la nostra creatività è esportata nel mondo, lo stiamo dimostrando, lavora bene in Italia e all'estero, c'è tantissimo da dire in questo settore anche di positivo. Certo, sì, poi sì, l'arte di arrangiarsi in genere a lati positivi e lati negativi. Ma sì, è un luogo comune, però esatto, a me molte volte ha cavato d'impiccio. Esatto, cui... esatto. Ti faccio annunciare la seconda canzone, anche se sì, okay, perfetto. Allora, dall'album Desert Session, Josh Homme col supporto di PJ Harvey, Make It With You. Ok. E oggi Sono Solo Nuvolette riceve anche i complimenti per la scelta musicale, e non ho meriti, è merito del mio ospite Giorgio Bellasio. Stiamo andati un po' troppo sul tecnico. Sì. Uno dei discorsi interessanti che escono da queste parti è come l'intero comparto nerd, oramai chiamiamolo così perché cultura pop è una definizione, ma l'intero comparto nerd ha creato negli ultimi anni i due, quelli che mi piace chiamare contenuti zero, nuovi contenuti mainstream, che sono da una parte i film fantastici di supereroi e dall'altra i film di animazione 3D. È un percorso, quelli di film di animazione 3D, dalla Pixar in avanti, e poi la DreamWorks, e poi Blue Sky, sì, la casa di produzione di L'Era Glaciale, esatto, e alcuni altri titoli. Si è creato tutto un mercato, però è ad altissima diffusione. Personalmente, giusto per fare un cenno, anni fa andai negli Stati Uniti a seguire un po' di corsi di sceneggiatura e avevo un pitch da presentare per un film di animazione 3D, e sì, mi dissero che non avrebbero mai accettato un film di animazione 3D da uno sconosciuto, perché il film di animazione 3D come costo di produzione era troppo elevato. Ah beh sì, indubbiamente. Beh, insomma, tanto non è che ti dovessero sovvenzionare in quel caso lì. Nel pitch tu presenti l'idea, sì, in sì, qualche sì, modo sì, se piace magari cominciano a, sì, a farla girare. Beh, sì. Però chiaramente se ti presenti tu da un americano, loro che comunque hanno un impianto ben più che rodato, no? In genere tendono ad adattare su quelli che sono i loro sì, modi di fare entertainment, certo, certo, in maniera che venda, perché poi il discorso gira sempre intorno a quell'aspetto. Ho dato per scontato, il pitch di per sé è un principio molto particolare che si sta imponendo anche in Italia, ma quasi sempre viene travisato, perché la nostra industria culturale è un po' particolare, che è di per sé presentare un progetto alla casa di produzione raccontando semplicemente le idee in estrema sintesi, qualcosa che puoi sì, fare con... Esatto, esatto, è un progetto, un'idea. Esatto. Cioè pitch è un termine che deriva dal baseball, tirare la palla. Esatto, e in genere nel caso di un film d'animazione o similari si presenta anche quello che è, insomma, un'idea dell'aspetto visivo di quello che è il soggetto. E in questo caso, perché oltre all'idea c'è anche il come sarà, devi dare l'idea di che qual è la storia, ma anche come la realizzerai visivamente. È fondamentale, visto che si parla di qualcosa che viene proiettato, visto, c'è bisogno di capire se c'è anche solo una scintilla, non è necessario esatto, presentare l'idea grafica del secolo, l'importante è che ci sia qualcosa di stimolante per un produttore o per chiunque esatto, sia intenzionato esatto, a investire dei soldi su un esatto, progetto esatto, perché comunque i costi sono alti di produzione per un film d'animazione, una serie di animazioni, cioè comunque si parla di milioni di euro esatto, o barra di dollari, poi negli Stati Uniti cresce in maniera esponenziale, cioè a me però trattandosi di un'industria, il fatto stesso che cresca vuol dire che c'è un introito in proporzione. c'è un introito in proporzione quasi sempre. Dipende dai mercati ovviamente, e dipende, ormai mi sembra che sia tutto molto bruciante, infatti Lost World, nel senso di fretta, l'ultimo. Sì, ma beh, rispetto a un tempo che io mi ricordo, vabbè, sono tempi arcaici ormai, però passava veramente dei gran mesi prima che da un'uscita in sala venisse fuori un DVD, per non parlare dei tempi antichi delle videocassette in cui passavano 2 o 3 anni prima che uscisse un film, no? È fatto tutto per essere bruciato piuttosto in fretta. I film comunque, se non incassano una cifra adeguata nel primo fine settimana, spariscono dalle sale. Sono già condannati al momento dell'uscita, se non tirano dentro spettatori a sufficienza muoiono soffocati semplicemente. Per cui anche un produttore si guarda bene da investire in certi, ci deve credere veramente in un soggetto. È il motivo atipico. Per cui, questo per chiarire, i film di Hollywood investono già quasi sempre, cioè il 90% dei casi oramai, quantomeno l'industria dell'intrattenimento investe su qualcosa che c'è già, i franchise di intrattenimento, che possono essere Star Wars, Star Trek, adesso Jurassic Park, adesso tutta una serie di cose che hanno già un quantomeno un pubblico di riferimento. In questi casi sì, ci sono proprio i followers di tutte le varie saghe, gente affezionata, poi sono, cioè, comunque hanno dei dipartimenti di marketing e sanno bene come rilanciare anche cose magari che sono un pochino datate. Non a caso adesso ci sono anche tutta una serie di reboot, i reboot vengono fatti per le nuove generazioni, perché i ragazzini di adesso che non hanno visto, anche solo, e non è molto tempo fa, non hanno visto magari lo Spider-Man di Raimi, rifanno un altro Spider-Man adesso. Esatto. E effettivamente guardandoli cambia il linguaggio comunque, si vede già, il riferimento è differente, poi può piacere, non piacere, non è quello il problema. No, si vede molto, anzi, prendere lo stesso personaggio e accorgerti, ok, che dovevano raccontare un pochino un'altra storia perché dovevano non lasciarsi dietro neanche quelli che avevano visto gli altri Spider-Man. Certo. Quindi c'era tutto il discorso pseudo-psionistico dei genitori di Peter Parker, che negli Spider-Man di Raimi non è mai stato toccato. No, esatto. È qualcosa pescato più dalla mitologia fumettistica di Spider-Man. Esatto. Adesso, per esempio, che Sony ha i diritti di Spider-Man, però hanno fatto un accordo per rimetterlo nel multiverso Marvel, bisognerà vedere cosa succede. Non ho la più pallida idea. Comunque gli americani sono molto bravi, cioè l'ha inventato loro l'entertainment cinematografico. Poi è chiaro che la formuletta con cui portare gente al cinema, chiaramente sono opinioni personali, è una mia percezione della realtà, magari non corrisponde al vero, io la sento in questa maniera qua, però c'è una formuletta più che rodata che funziona per attirare il pubblico, che si tratta poi nel caso dell'animazione di una stratificazione a più livelli, perché tutto sommato gratta gratta, cioè non è il bambino o il ragazzino che va al cinema, è sempre la famiglia che ce lo porta, o che gli dà i soldi eventualmente per andarci. Per cui nel caso dei film d'animazione devono far contenti tutti, genitori, bambini, e allora ci buttano dentro un po' di tutto. Poi ci sono sottili differenze, ci sono sfumature differenti tra casa di produzione e casa di produzione, quello è piuttosto percepibile, così come c'era all'epoca. C'è un libro molto interessante, Le anime disegnate, di Luca Raffaelli. Lui parlava delle filosofie, della filosofia nei cartoni animati, e faceva questa distinzione tra cartoni animati della Disney, della Warner Bros. E cartoni animati giapponesi, dove diceva che filosofia Disney era uno per tutti, tutti per uno, e tutto era rimasto effettivamente, cioè la struttura bene o male è sempre quella, c'è un gruppo di amici, a un certo punto c'è un problema da risolvere, c'è un'incompressione. Poi questo in realtà è applicato anche a tutti gli altri, anche ad altre cose. Però gli amici poi supportano e in qualche modo, e la persona si riscatta anche attraverso un elemento che lo caratterizza per valore. Esatto. E quindi tutto bene quel che un finisce. Un discorso di comunità, è parte la comunità stessa che è parte del sistema di valori. Sì, che fa parte, che poi il sistema di valori americano è l'ideale perlomeno, poi la realtà sappiamo bene che non è affatto così. È più simile a quella giapponese. In realtà. Comunque Warner Bros. Invece è tutti contro tutti, nel senso che non c'è vincitore, non ci sono vinti, Bugs Bunny piglia legnate così come le piglia Daffy Duck, così come tutti gli altri, tutti esplodono e tutti perdono pezzi, per cui appunto non ci sono né vincitori né vinti. Anzi, la Warner è quasi sempre storia di perdenti, se pensiamo ai Looney Tunes, perché Wally Coyote che non prende mai Bip Bip, Gatto Silvestro che non prende mai Titti. Sì, poi incredibilmente c'è una relazione che è ben più solida tra questi personaggi rispetto, è più genuina, è più sincera nella... in questo cinismo. Poi vabbè, c'era Chuck Jones che comunque architettava delle messe in scena che erano sì, formidabili. Ha proprio svecchiato certe cose della Warner Bros. E poi i giapponesi, che invece è uno contro tutti. Cioè la vita, beh, questo secondo il principio un po' dei giapponesi, la vita è dura, la vita è uno schifo, tu sei da solo, nessuno ti aiuta e devi contare solo sulle tue forze e darti da fare per uscire fuori da questa valle di lacrime. Ma ci sarebbe un titolo caposaldo, un personaggio caposaldo che secondo te incarna questa filosofia nell'anime? Nell'anime giapponese? Bah, non lo so, me... Vabbè, immagino già Lupin III, che adesso è proprio un'icona pop, trascende dal fatto sì, che... Sì, è anche un po' anarchico, lui, esatto, è un po' atipico rispetto... Quello è già un ladro, eccetera, però... Non so, mi viene in mente Akira, mi vengono in mente più le serie animate, perché è sullo spalmarsi degli episodi che sì, tu esatto. vedi sempre la difficoltà di questo personaggio di raggiungere uno stato di equilibrio, un raggiungimento, okay, insomma, che lo metta in pace con quello che è se stesso e il resto del mondo. Non a caso sono lunghe, sono abbastanza agonizzanti i percorsi sì, che fanno i personaggi. E adesso forse, allora, diciamo che si è uniformata questa cosa qua, tutti tendono sempre più o meno lo stesso principio, quello di base disneyano, si sono differenziati un pochino di più gli stili o ci sono sfumature diverse su come vengono trattati i personaggi. Diciamo che rimangono sempre, allora, dal mio punto di vista, le case di produzione interessanti americane che fanno prodotti di qualità, allora, facendo una scaletta, metterei comunque per capacità, per impegno, per struttura e per qualità, la Pixar sicuramente va al primo posto, non c'è niente da fare, anche se io preferisco come spirito, ad esempio, la Blue Sky. Ok. Ma perché ha una tendenza più umoristica, mi appaga di più, mi diverte di più rispetto a Pixar. Titolo simbolo di Pixar che tu metteresti in cima a tutti? Ah beh, il mio film preferito resta comunque Gli Incredibili. Ok, e invece per Blue Sky immagino L'Era Glaciale. Beh, in realtà no? Devo dire che mi sono innamorato di Piovono Polpette. Ah, ok. E non mi era neanche dispiaciuto Orto nel mondo di Chi, ma se dovessi scegliere mi era piaciuto molto Piovono Polpette, era piuttosto originale quando era uscito all'epoca. E poi comunque a scalare, beh, la Disney comunque, sì, perché Pixar è vero che insomma, c'è anche Disney in mezzo, ma Disney fa le sue produzioni, ha spronato sì, degli ottimi film e incredibilmente un po' diversi, cioè è più Disney, Pixar, che Disney in certi film. Sì. Perché trovo che ad esempio film come Ralph Spaccatutto, okay, piuttosto che i Robinson una famiglia spaziale, piuttosto che adesso non me ne vengono in mente altri, però questi film qua sono un po' atipici rispetto a quello che è la dimensione classica a cui siamo abituati di Disney, e mi hanno sorpreso perché erano congegnati bene, avevano dei bellissimi scamottaggi, cioè c'erano delle sorprese effettive. E poi in coda metto la DreamWorks perché mi sono antipatici, per cui non mi piace, come tranne alcuni film, tranne Dragon Trainer, che è costruito bene effettivamente. L'altro film che apprezzo molto della DreamWorks, ma siamo nella notte dei tempi, era La strada per El Dorado, che era in 2D, era un'animazione tradizionale, e quello era molto gustoso. Poi in generale non mi piace come sono trattati i personaggi, perché viene fuori veramente lo stereotipo, cioè tutti quanti, dagli uomini delle caverne alle lumache Turbo, sono tutti con quella faccia un po' americana, ehi hai visto, guarda sono qui, guarda che figo che sono, cioè sono sempre sì, la strizzata d'occhio, il bullo. Il personaggio del bullo potrebbe essere... No, il bullo no, neanche, perché il bullo è comunque un outsider. Cioè, mi viene in mente il bullo, il Fonzi della situazione, perché... Ma Fonzi era più figo, perché era anche... aveva degli aspetti, come dire, nascosti, no, Fonzi? Perché comunque era un acchiappone, cioè giustava, non lo so, c'era un qualcosa di nascosto in Fonzi. Sì. Questo invece hanno proprio il cliché del tipo cool, secondo la logica americana, sì, no? Ma forse per te è fastidioso, perché ti accorgi che quel cliché potrebbe contenere molto di più e invece lo trovi depauperato. Trovi solo la superficie del... È riduttivo, è proprio estetica e basta. Come un po' probabilmente il frainteso sul termine antieroi, che in realtà veramente antieroi L'antieroe di per sé dovrebbe essere qualcuno che è sconfitto, però oramai l'antieroe viene applicato anche a qualcuno che si comporta come vince, però poi in realtà in qualcosa è diverso dall'eroe senza macchie, senza paura. È un discorso molto complesso e andiamo nella narratologia, però... Sì, ma è vero, è così, ma non a caso adesso si punta molto su questo tipo di personaggi, ma hanno sfaccettature più interessanti, sì. Non c'è niente da fare. Ma perché? Perché sono più vicini a noi, cioè, esatto. Tutti noi abbiamo dei, seppur nel nostro piccolo, dei picchi di eroismo e poi siamo stracarichi di difetti, problemi, esatto. Nevrosi che ci rendono sicuramente, nella logica dell'empatia, che è quello su cui si basa poi il cinema, l'identificazione, cioè, con il protagonista, sì, riconoscere qualcosa del proprio vissuto attraverso quello che sta compiendo il protagonista a livello sensibile, non a livello tangibile, esatto, no? È quello, esatto, che scuote un po' l'interiore. Ovviamente un personaggio che ha dei conflitti grossi, funziona molto di più rispetto, esatto, rispetto a Superman, ad esempio, che i conflitti, esatto, non ne ha neanche uno, per cui... Infatti Superman continua ad avere difficoltà a portarlo sullo schermo. Adesso avremo un Batman contro Superman, che forse per il momento ha fatto più rumore, più che altro per Ben Affleck, cast, sì, nella parte di, a me non, di Batman. Non dispiacerebbe vedere una trasposizione vera, fatta bene, di quello che era il fumetto di Miller, dove se la dava di santa ragione con Batman, okay, Superman. Sì, non lo vedremo mai, probabilmente. Credo questo, anch'io. Perché al di fuori... fuori da quei canoni, stiamo parlando, sì, di qualcosa di popolare messo in mano a un autore che è stato Frank Miller in un medium che all'epoca era il fumetto, che era comunque di nicchia, quindi poteva fare delle sfide. Ma penso che un Batman è vecchio, incazzato e desideroso di rivalsa non lo vedremo mai, sì. O magari sì, però non sarà a quel punto lì. Forse nel momento in cui vedremo il Cavaliere Oscuro di Frank Miller al cinema, Batman non sarà più un personaggio mainstream. Ah beh, probabilmente, ma io penso che un personaggio del genere ha bisogno di tanti soldi per essere sviluppato, e nel momento in cui entrano in ballo tanti soldi, secondo me i produttori mettono bocca poi per la vendibilità del progetto, e quindi non vedremo mai Joker ammazzato da... scusatemi, Robin ammazzato da Joker, esatto, come era nel fumetto di Batman, esatto, né tantomeno Batman ridotto a pezzi dopo essersi pestato a sangue con Superman. Ok, esatto. Esatto. Temo. Dai, sia così. Su questo, questi brandelli di orrore fumettistico, ti faccio lanciare la terza canzone. Allora, dedicato all'amore della mia vita, i Laibach con Tanz mit Laibach. È decisamente vero che le puntate di Sono su Nuvolette sono come il TARDIS. In realtà al contrario, non è più grande all'interno, ma il tempo sembra un'ora, sembra tanto, e poi nel momento in cui ci sei dentro... rapidissimo, wow. Sì, passa in fretta. Io vorrei approfittare di Nicola, che giustamente mi ha bacchettato sulle dita, perché ho detto una cagata, cioè piovono polpette, non è della Blue Sky ma è della Sony, che fa delle ottime produzioni comunque. ok. Qui Nicola dice anche se può fare una domanda. Direi proprio di sì. Diciamo di sì. Intanto salutiamo. Pare che Nicola abbia sparso la voce, quindi abbiamo tanti ascoltatori oggi, più o meno tutti del mondo dell'animazione, quindi potremmo andare sul tecnico hardcore. Penso di sì. Credo che la metà siano francesi, quelli che ci stanno ascoltando, quindi non so se capiscono veramente tutta la conversazione. Ok, allora ti si chiede: cosa pensi del processo produttivo di Laika, che hanno fatto Coraline e Paranormal? Beh, sono strepitosi, io amo i loro lavori, amo tutto quello che è la stop motion, perché solo dei pazzi si possono mettere lì e nel 2015 animare i pupazzetti a passo uno con tutta quell'elaborazione di set, di impostazione. Sì. C'è una ricerca stilistica forte sul gotico, sul... La ricerca, sì, poi spesso arriva da illustratori già noti, come nel caso di Coraline, che adesso non mi ricordo il nome, Uesugi era, che aveva fatto un giapponese o un franco-giapponese, non mi ricordo di preciso, un illustratore bravissimo che aveva sviluppato il character design. Ma è proprio l'impianto stesso che trovo meraviglioso, così come trovo meravigliose tutte le produzioni della Aardman. Non ce n'è una che è brutta di quelle, delle cose che fa. Comunque, non lo so, da un certo punto di vista io sono un po' un romantico e sento la materia di quelle robe lì. Sento, okay, che esiste. c'è, è fisica, è tangibile, per cui anche se magari non ha la fluidità di una superproduzione americana, perché lo percepisci, no? Un po' lo scatto dei personaggi, il fatto che sono dei pupazzi, ma hanno una vita dentro che è meravigliosa. Sì, probabilmente il problema del digitale alla fine è che parti da una materia molto fredda. Sì, è difficile scaldarla. Ci si riesce, perché ci sono tutte le strade, o in qualche modo uno sperimenta finché non riesce a ottenere un compromesso che funzioni. Però di partenza è vero, come hai detto tu, è molto fredda la materia del 3D. Senti che non esiste, ecco, è più impalpabile del... E chi ha fatto i compiti e ha visto su Facebook che c'è ho messo il link, la tua pagina, tra l'altro pagina Facebook Sono Solo Nuvolette, cliccate mi piace, datemi soddisfazione. Se vi piace il programma, se non vi piace il programma non cliccate, pazienza, uno fa quello che può, qui siamo poverelli in pieno understatement piemontese, quindi facciamo un programma abbastanza bello, come dicevano dei ragazzi di un festival musicale quattrinese. Uno dei discorsi interessanti è nel tuo curriculum, cliccando, c'è questo video di questo progetto di cui è stato girato il pilot, che si intitola Tutti i Santi Giorni, Ogni Santo Giorno. Sì, ogni santo giorno. E lì mi sembra che ci sia una ricerca di... cioè è fatto in digitale, però si cerca di dare un flavor, un sapore analogico. Sì, è più... sì, ma allora diciamo che il progetto nasce da un momento di saturazione mia nei confronti di questo mestiere, no? Perché siamo un mestiere allegro. Tra l'altro vorrei fare... posso fare una piccola parentesi? Certo. Allora, vorrei insomma sfatare un mito. Per tutti quelli che pubblicano su YouTube i messaggi subliminali all'interno dei disegni animati. Ora, okay, vorrei rassicurare tutti quanti, cioè non c'è nessun complotto di nessun tipo, non c'è nessuna famiglia potentissima, nessuna lobby, è che è un mestiere talmente esasperante, è talmente alienante, che semplicemente l'animatore si rompe le scatole e quindi comincia a fare degli scherzi, okay, perché è la sua soddisfazione, la sua rivalsa nei confronti del progetto su cui sta lavorando. Dici, okay, ah sì, mi stai uccidendo e adesso ti prendo in giro. Okay. Quindi è solo quello. Quindi okay, non temete, non c'è nessun complotto mondiale su, okay, quello. Okay. Io per primo ne ho fatti. Cioè, non posso, okay, dire dove, perché sennò per il momento sono informazioni classificate, ma tornerai quando saranno. Potrò andare nei dettagli. Sì. Comunque ho fatto cose turpi. Okay. Sono passate. Qui chiedono anche cosa ne pensi di Miyazaki. Qui abbiamo il gruppo di ascolto che sono fantastici. Sempre Nicola che è di Miyazaki. A me piacevano molto i lavori vecchi di Miyazaki. Mi piacevano molto i lavori vecchi, mi piaceva molto la serie animata di Conan, mi piaceva molto quella fatta insieme a Pagot, che era Sherlock Holmes, l'ho trovata meravigliosa. Ho amato il film di Lupin, ma per un semplice motivo: quando ero ragazzino, i primi videogiochi laser nelle sale da gioco c'era Lupin e il castello di Cagliostro, okay, per cui mi ci sono accanito talmente tanto che poi ho simpatizzato per il film. Mi è piaciuto molto Porco Rosso, sono arrivato fino alla foresta incantata, no, la principessa Mononoke. Dopo ho visto l'altro, che era la città incantata, sì, forse non mi è piaciuto, e poi ho smesso di guardarli. Non lo so, beh, io son fatto un po' a modo mio. Dopo un po' trovo che sia ripetitivo Miyazaki, e che a un certo punto, da quando la Disney ha deciso che doveva essere scoperto in tutto il resto del mondo perché è figo, è un autore eccetera eccetera, ha cominciato a starmi un po' sulle scatole. Vabbè, quasi trovo sempre qualità, questo è un problema, visto che si parlava del discorso nerd, qui nerd o meno, comunque di professionisti con un certo retroterra culturale, a volte quando qualcosa diventa di massa se ne diventa un po' nauseati. Adesso parlare di Miyazaki, sì, e massa è problematico, però comunque ci arrivano anche, sì, nel caso mio, che non sono un esperto di anime, ho cominciato a conoscere Miyazaki un po' più tardi degli altri, probabilmente chi lo seguiva dall'inizio a questo punto è già al termine di un percorso. Ma sì, non lo so, magari sono io che forse per fare da... non lo so, non ho più pallida idea del perché, ma non mi piace, trovo veramente ripetitivo. Ecco, se devo dire, Miyazaki è un maestro, cioè questo non glielo toglie nessuno. Beh, questo non è, cioè, fuori di dubbio, questo è innegabile. Gli ultimi film non mi sono piaciuti, mi hanno proprio stufato. trovo molto più interessanti cose del passato, perché c'era più, erano meno stantie rispetto agli ultimi progetti. E visto che il tempo corre molto in fretta, sì, volevo sapere qualcosina del progetto, di questo, esatto, che mi chiedevi. Di questo che ti chiedevo o di altri progetti su cui stai lavorando? Ma allora, in questo momento, dopo vari pellegrinaggi a destra e a manca, diciamo in un periodo in cui ero abbastanza saturo di certe cose, soprattutto dell'animazione 3D, perché per lo stesso discorso di cui prima, no? Che è un po' fredda, e non solo, diciamo tutta la parte produttiva è molto complicata, molto, esatto, articolata, richiede un sacco di... Cercavo un'esperienza semplice, elementare, basica, che non fosse satura anche a livello visivo, che non fosse farcita di roba. Diciamo che poco tempo fa avevo trovato una cosa illuminante al Salone del Libro di Torino, questa edizione di un libro di Rodari con le illustrazioni di Munari, di Bruno Munari, e mi è piaciuto, ecco, di colpo mi è tornato alla mente questa filosofia, mi è apparsa evidente, la filosofia di non dover appalesare tutto, no? Ma suggerire e continuare a proporre allo spettatore, al fruitore, insomma, di un prodotto, mettiamolo così, anche se sembra strano detto in questi termini, dargli qualcosa, non in maniera passiva, ma dargli la possibilità di aprire, cioè, ulteriormente, no? Lo sguardo sulle cose che già vede. E allora da lì mi è venuto il desiderio spontaneo di fare qualcosa di molto semplice, di godibile dal punto di vista del ritmo, perché se ci fai caso comunque la maggior parte delle cose che vediamo ha un ritmo spintissimo, adrenalinico. Esatto. Io lo vedo sulle animazioni per bambine, perché mio figlio ne vede di cose alla televisione, io ne approfitto per rifarmi un po' una svecchiata, però non c'è poca roba che ti permette di posare veramente lo sguardo e avere quel mezzo secondo in più per assimilare realmente una cosa che tu vedi. E insieme a uno sceneggiatore di lunga esperienza, Guglielmo Fiamma, sceneggiatore di fiducia, allora gli avevo detto: ma senti, io ho letto questo libro, eccetera, eccetera, ma non hai un'idea, per evitare, insomma, di avere poi implicazioni con i diritti? E lui ha avuto questa idea, secondo me, geniale, per una serie animata dove ogni giorno una puntata differente col santo del giorno, dove non viene fatto un lavoro di catechesi, ma viene raccontato quell'elemento che ha reso santo il santo stesso, quindi quell'elemento di valore che l'ha santificato, e più che altro viene raccontato attraverso le gesta di un bambino che vive nella sua cameretta. Certo. Il bambino, tutto è pensato per essere il più neutro possibile. Il bambino, ad esempio, ha la sua mutandina, il suo pannolino, in realtà è trasparente, quindi è... A seconda del fondale che c'è dietro, colorato, può essere un bambino o una bambina, non fa differenza. È come quando per la strada c'è la signora col bambino, arriva l'amica e dice: ma che bel bambino! No, guardi che veramente è una bambina. Oppure: che bella bambina! No, guardi che è veramente un bambino. Cioè, lasciare tutto su un livello molto leggero, sì, e attraverso l'esperienza di gioco di questo bambino far vedere che lui di colpo diventa grande, ma è solo un viaggio fantastico, diciamo. Riproduciamo le gesta del santo e lui, in piccolo, tornato nella sua cameretta, riproduce più o meno la stessa cosa. E infatti il primo, questo pilota, che è San Martino, è stato fatto sul taglio del mantello di San Martino, che l'ha dato appunto a un poverello per coprirsi, per ripararsi, e tutto fiero del suo gesto, insomma, è stato poi santificato. Il bambino in piccolo gioca con queste coperte, copre il suo orsetto e tutto fiero va a farsi vedere dal calendario, dal santo, certo, come dire: guarda, ho imparato il tuo gesto. E tutto questo, appunto, senza, cercando di metterci meno retorica possibile, cercando di animare il meno possibile, in maniera che tutto fosse chiaro, e poi anche per me tecnicamente, per evitare di dover faticare per niente, no? Perché tante volte è un lavoro veramente logorante disegnare o al computer in 3D fare, sì, pose in maniera che sia sempre tutto ricco, tutto coreografato. E devo dire che ci ha dato delle belle soddisfazioni, perché, vabbè, al momento produttori, a parte Maga Studio, Maga Animation, che ha prodotto il pilota, coproduttori, persone interessate tantissime, gente che in questo momento siamo in cerca, diciamo così, ci stiamo muovendo per trovare qualcuno che possa coprodurre o intervenire in parte per realizzare il progetto. La soddisfazione più grande dal mio punto di vista, che è quello per cui poi ho scelto di fare questo mestiere, non è il denaro, che non è che ne giri poi così tanto per gli animatori, è sapere che qualcuno vede il tuo progetto e ne trae piacere in qualche modo, proprio piacere di cuore o fisico. E questo cortometraggio qua, per i suoi contenuti, in realtà ha fatto il giro di tutta una parte di Europa e extra Europa. È stato all'Holland Film Festival, è stato al festival di Tbilisi in Georgia, è stato l'Armenian Child Film Festival, ecco, ad esempio di questo ne parlavamo prima, è un festival armeno dove praticamente portano al cinema bambini che non hanno mai avuto la possibilità di andare al cinema. Cioè, queste creature non sono mai state al cinema, non hanno mai visto una sala, non hanno mai fatto un'esperienza in condivisione con altri bambini guardando un progetto proiettato. E la selezione, ovviamente questo festival seleziona cortometraggi con argomenti che sensibilizzino in qualche modo su certi aspetti umani e profondi della nostra stessa esistenza, per mostrarli ai bambini. E a me questa cosa ha reso molto, molto fiero, sono molto onorato di essere presente in qualche modo, sebbene senza aver preso premi fino a questo punto, ma non ha importanza per me. Mi piace l'idea che il progetto giri, sia visto, e che anche solo un bambino abbia avuto un momento o di emozione o di sorriso guardando questo cortometraggio. È un bellissimo modo per chiudere la puntata, suggerendo naturalmente la visione su YouTube di Ogni Santo Giorno. Ogni santo giorno, sì. E poi comunque dal tuo blog, se vuoi dare due coordinate spazio-temporali. Il mio blog è un po' povero, non è che lo aggiorni molto spesso, però gbellasio.blogspot.it, trovate qualche informazione in più su di me. C'è anche la mail, se volete scrivermi, sarò ben lieto di rispondere. Perfetto. Sono sul Nuvolette, chiude qui, ti faccio lanciare l'ultima canzone, anche qua, e qua pestiamo sodo, strapazziamo un po' le orecchie, ci rifacciamo un po' di ho dovuto mandare in onda delle cose anni 80 da queste parti, e qua abbiamo, e qui almeno un po' di soddisfazione. Grazie comunque Giorgio Bellasio per essere stato qui con noi, grazie a te, e ti faccio chiudere la puntata annunciando allora cover di Cat Scratch Fever di Ted Nugent, eseguita dai Pantera.